io mi chiamo Antonella. Abbiamo saputo che c'è stato un CDA fatto il 29 maggio del 2009 che dice sul verbale: si propone la chiusura della mensa di via Golgi. Il 29 settembre, questo è stato il 26 maggio 2009, il 29 settembre che c'è stato un altro incontro col CDA, è stato fatto il verbale dicendo che il CDA si propone la chiusura di via Golgi e la casa dello studente. Tutto questo è avvenuto nell'oscurità totale, disinformazione totale, perché nessuno sapeva niente. A questo CDA hanno partecipato 14 persone tra studenti e docenti. 13 persone hanno detto sì e una persona si è astenuta. Un bel giorno, il 19 di ottobre, vengono qua docenti, personale tecnico amministrativo, si sono informati chiedendo che la chiusura di via Golgi era imminente al 31 dicembre. A qualora noi siamo rimasti un po', non sapevamo che pesci pigliare, allora noi lo diciamo all'azienda il 19. Grazie. L'azienda ha ricevuto la lettera dal Politecnico dicendo che loro al 31 dicembre dovevano lasciare tutto, le chiavi. Chiaro. Però, allora io ho preso delle persone che hanno partecipato e gli ho detto: ma scusate, come l'avete, perché non avete creato, non avete discusso questo CDA? Perché comunque, essendo un ente pubblico, e sono soldi nostri, dovevate informare. Qui c'è stata una disinformazione totale. Chiaro. Buio pesto, nessuno sapeva niente. Nel momento in cui ci siamo mossi, hanno detto: no, i ragazzi non fanno niente, quelli non si muovono. Io ho detto no, perché i ragazzi nel momento che sono informati si muovono, e tale è stato, perché abbiamo avuto un'adesione totale. E anzi, lo ribadisci, io ringrazio i docenti e i ragazzi, perché se non fosse stato per loro noi non saremmo in questa discussione a batterci no alla chiusura della mensa. Ma dopo 34 anni che lavoro qua, nessuno mi tira via il diritto di chiudere la mensa.